cioè, hai detto c'è una SEAT, oppure che macchina può avere? Sono qui a prendere con la SEAT al SEAT. No, adesso non mi viene proprio, ma se ne guardo la fattura ti dirò il nome, adesso proprio non me lo ricordo proprio, perché è un voto di memoria. Sì, il dottor Murgia, poi con la moglie aveva il dottor Carlos, aveva una polo, non lo so, non insisto, c'è proprio, c'è un vuoto di memoria, non riesco a ricordare, io sono normalmente la buona memoria, però adesso non riesco a ricordarmi i particolari, però Altea non mi sembrerebbe, almeno non mi ricordo una macchina di averne fatta di recente di quel tipo di macchina. Ok, vabbè, cambiamo discorso, intanto facciamo una chiamata sul 10, se c'è qualcuno che nel frattempo vuole entrare, se no proseguiamo avanti sul 10, chi vuole entrare, vai, riprenditela Gianni. Ok, pelato il mio. Non mi ricordo assolutamente niente. Ma a parte le facce, se magari fosse stata la macchina, tu mi hai detto una Seat Altea, però non me la ricordo come Seat Altea. Può darsi che domani mi venga a memoria, te lo dico magari. E mi ricordo un po', comunque ricordo che la dottor Cano, quindi diciamo lavorato, la dottor Cano la stavo guardando da parecchio tempo e che io ho sempre avuto un Murgia. Quello mi ricordo come ho curato il carburatore a uso ed è praticamente quello che è a muro dove sono io, lui viene due volte alla settimana, quindi perché sono già stati in discorso, mi ricordo molto dottor Murgia, dottor Murgia. Ma qual è questo che mi ha detto che viene due volte alla settimana? Dottor Toro, sono stato in settore. E che è l'unica macchina c'ha? Un po' di scala c'ha, non riesco a memorizzare, ti posso dire che non blu, ma azzurro scuro. Ma forse è quello, mi lo sai, forse adesso pensandoci c'ha il fuoristrada. C'è da lui questo, ricordo, siamo molto amici, lui ci ha venduto il terreno, lo aveva pagato a capo, altro terreno, il dottor Polo, e allora, cioè, lui è, come si chiama Ullo, come proprio unico, quando tu dico, però a Ullo non viene, perché c'è pazienti, io sono un paziente, è anche un po' caro amico. Mi pare adesso ricordando che forse era un fuoristrada, però non vorrei dirti una fessidia, dai, è più un fuoristrada che avesse Altea, sicuramente. Ok, avanti, e poi cambiamo discorso di medici, se no magari qualcuno dice ma non avete qualcosa di meglio da parlare. Cosa ti volevo dire? Sta già piovendo, ma vedi l'acqua di lì, si sente già l'acqua, perché poi io sono all'interno e non mi rendo conto. Sta piovendo, sta piovendo. Domani come c'è pure la cosa verrà rimandata e non andranno a fare niente. Lì ce n'è tempo. Ok, no, però la verrà messo che c'è quella, quindi. Ok, meglio con il babbo si riposa. Babbo si riposa. Ma tu non hai detto che hai perso tuo padre? Non mia madre, Roberto. Ah, avevo capito, ma io ero convintissimo che avessi perso tuo padre, no? Non tua madre. Oh no, mamma Roberto. E vabbè, sempre la stessa cosa, non cambia niente. Quando sono i genitori o chiunque sia che vuoi bene. Va bene. Cosa ti volevo dire? Tu mi stai dicendo l'elicottero, quello che hai visto dentro la vetrina. Sì, ma sei veramente, guarda, un grande collezionista, un grande amatore, mi nevo tanto di cappello. No, ma quell'elicottero non è fatto la colletta, quello lì è costruito, l'ha fatto mio fratello con la lamiera, è tutto, cioè, la lamiera battuta, sagomata, saldata e tutto quanto. È bellissimo, un capolavoro per l'arte, per il popolo, perché me ne sento io per me, che non so fare di quelle cose, non per l'arte. No, già, ne avevi tutta quella parte destra della vetrina, con le aerei, tutte quelle cose che ci sono, il tornado, sono tutti fatti con la lamiera, la Ferrari, quei vecchi aerei della seconda guerra mondiale, là, del dopoguerra, sono tutti aerei fatti, modelli fatti con la lamiera, la Ferrari, Testa Rossa, sotto, la 500, la 500 forse la vedi anche, non so se l'hanno notata, fatta ancora allo stato grezzo, ma abbiamo fatto una mostra su questo, ecco, non ne trovi facilmente di quelle cose lì, che qualcuno che si mette a farle, normalmente prendono i pezzettini e li incollano e li assemblano, quello è tutto fatto alla batilastra, diciamo. Sì, ho visto che è una roba fantastica. No, affascinato da quelle cose, perché diciamo sono dei colli che l'Occidente ha dei capolavori, capolavori, non la volevo buttare la parola, però la butto. Sono dei capolavori che uno si dedica, non con l'interfaccia, invece penso che ci metta l'animo, gli dice anche l'animo, quando si fa queste cose. No, vabbè, diciamo, qualche po' di lavoro già c'è, dai, non esageriamo con i capolavori, dai, diciamo un buon lavoro, dai, perché se no vale qualcuno dire, dice che sei vari anche presuntuoso, comunque è una cosa abbastanza carina. Ok, e dimmi un po', adesso stai utilizzando il nuovo apparato che ti sei acquistato, che hai acquistato da poco, così? E lo accendo ieri, lo penso, perché cosa ho detto, se non lascio il fermato, si incardinava, qui là, non ho altro rilascio, lo penso, in un manco rilascio, e ogni tanto li uso nel sacco microfoni, quando esco, e uso il 48, e no, tutto per farlo funzionare, non è, posso modulare anche con l'altro, non c'ho tutto queste pezzette, però mi piace a vederlo ogni tanto, a carezzarlo, una cosa che c'è, che mi ha sempre affascinato, come dice Vittorio Laiensu, che dopo 15 anni ne sono entrato in possesso, però all'epoca ho detto che ero quello che me lo acquistavo. Capace, ho sentito un colpo importante. Avanti, chi vuole entrare? Come l'hai già? No, no, non ti ho sentito. No, ho sentito un colpo di portata, pensavo fosse qualcuno che voleva entrare, probabilmente era un fulmine o qualcosa del genere, qualche disturbo atmosferico. Va bene, quindi tu gli tiri l'acqua dalla vasca da bagno, ossia che tuo figlio gli vengano le idee brutte. Mamma mia, no, perché mi vede lui sempre, lo sai cos'è, ha sentito l'altra sera il piccolo a queste, le chiamo io, troncate, scusando che sta ascoltando, e capito me ha detto papà, e lui non voglio, ha detto che tu hai parole con nessuno nella radio, ma sono restato la storia, non ho manco risposto, non ho manco risposto, ho girato, e gli ho scritto tutto, Claudio gliel'ha detto, mai gliel'ha detto, non voglio che tu, ha detto, sei una persona tranquilla che ti pieno, sto criticando, ho fatto una cosa, così una cazzata. Poi però sono risposto, vedevo, ho generalizzato la roba, capito, mi piace stare, sono 38 anni, non mi sono mai attaccato con nessuno per attaccarmi, e no, mi ha detto così, ha detto se sono detto che tutti i pensieri nella radio, ho la bocca da bagno e li butto dentro. Non arriviamo mai a quel punto, dai, si spegne prima, appena si sta sporcando le acque, sì. La radio è brutta per quello, cioè è bella per tante cose, ma è brutta perché non vedi in faccia la persona dall'altra parte, per cui non riesci a capire se sta parlando in modo amichevole, in modo scherzoso, in modo falso, eccetera. Per cui in certi momenti è meglio lasciar correre, far finta di niente, oppure cambiare canale e spegnere tutto. Infatti, quindi ho fatto sempre così, non mi interessa più di tanto. Deve essere un divertimento, un diversivo, non uno stress, se no a quel punto è finito. Ok, va benissimo, allora vediamo un po' di nuovo sul 10, non so, c'era prima Claudio tempo fa, vediamo se è in ascolto, se vuole entrare, non lo so. Claudio, se ci sei, batte un colpo. Luca l'avevo sentito anche a lui prima, poi c'è stato un attimino Benito, non lo so, probabilmente o stavo mangiando o stavo facendo qualcos'altro di diverso. Dai. Va bene, riprenditelo tu il microfono. Stavo modulandolo. Dimmi già. Stavo modulandolo. No, è tutto dell'assoluto, qua non sento neanche QRM, proprio vuota la frequenza. Ok, infatti. Non sento nessuna cosa, io sento appunto proprio nessun fruscio. Dammi un controllo di segnale già, dalle tue parti con quell'apparato. E ok, vieni avanti. Allora, 1, 2, 3, prova radio. 9 e 15. Ah, quindi già, stiamo andando bene, dai, non ci sono problemi. E dimmi un po', l'antenna è sempre alla stessa altezza, non hai avuto nessun tempo di, non hai avuto tempo di sollevarla. Non ho avuto tempo, non credo, devo farlo qui una cosa o l'altra. Hai capito, è andato tutto a farsi delle linee, diciamo, ma c'è un po' di tronchi a girarli. Io me l'ho promesso poi vabbè non ho avuto tempo. Sono sempre una cubica da piazzare per avere una resa migliore, una direttiva diciamo con un rendimento superiore, solo pazienza, per il momento lasciamo perdere. Voglio mettere un'altra antennina per altri tipi di frequenze, per cose che interessano a me, non per trasmettere naturalmente, per ricevere, e la voglio attaccare al motore, metto una direttiva Yagi con diversi elementi che c'ha un guadagno abbastanza rilevante, per cui voglio fare delle prove di ascolto a lunga distanza su frequenze che ascolto io da. Ti faccio una commutazione di antenna e mi dici il cambiamento di segnale. Adesso passo in direttiva, però polarizzata in orizzontale, orientata dalla parte opposta a tua. Vediamo quanto perdo, se riesci ancora a ascoltarmi. Ci siamo? Gianni, mi ascolti? Attenzione Gianni, se occupi. Mi ascolti con questa antenna? Aspetta che facciamo una prova già, adesso mi sposto più o meno nella direzione tua, diciamo a occhio perché non so esattamente dove rimane. Comunque adesso teoricamente il segnale dovrebbe iniziare a aumentare un pochettino, confermi? Guarda se inizia a aumentare il segnale, perché mi sto spostando completamente con la direttiva, aspetta, sono andato, diciamo sono spostato, prima ero tutto a nord, orientato, adesso sono a sud, non so se sono indirizzato nella tua direzione, comunque guarda un po' se è aumentato il segnale. Vediamo un po' se a che punto siamo arrivati, qua se l'ha fatto il giro completo, mi sono spostato di 180 gradi adesso. Niente, non è cambiato niente? Negativo. Aspetta un pochettino che proseguo un pochettino e mi dici se cambia il segnale. Io sto sempre parlando, 1, 2, 3, prova radio, la testa, vabbè non sono accordato con l'antenna, aspetta togliamo l'accordatore esterno, vediamo un po', ha cambiato qualcosa? Guarda adesso se è salito un po' il segnale. Ho sempre lo stesso, appena appena. Vorrei capire dove rimane tu, aspetta, torno un po' indietro. Ti hai presente, sono in orizzontale, c'ho davanti un ostacolo dalla parte tua probabilmente che mi creerà dei problemi, delle riflessioni, e adesso è cambiato qualcosa? Guardami un po' il segnale. Prova 1, 2, 3, vieni. Allora, 1, 2, 3, prova radio. E gli altri due Santiago, mi sa. Santiago sì? Sì. Aspetta che proviamo a fare una cosa un po' più fine, adesso sono arrivato più di 180 gradi di spostamento, torno un po' indietro un pochettino, guarda se cambia qualcosina, mi sto ancora proiettando, no, per capire dove è risolta la zona tua, guarda un po'. Prova a venire avanti. Attenzione, prova radio, vediamo un po' se l'orientamento dell'antenna è indirizzata diciamo perfettamente nella tua zona, solo ritorno, se è diminuito vediamo. Ok, prova. Allora, 1, 2, 3, prova radio, dammi il controllo di Santiago. Sì, qualche segnale, qualche Santiago. Quanto sono? No, per capire, così so, mi faccio un riferimento e so che quella lì è la direzione di Muros, dove si è orientato l'antenna. Dimmi un po', dammi conferma di Santiago. Oscilla, aumenta e abbassa. Sì, ma quanto? 5, più di 4, 5, 6, dimmi. Prova adesso. 1, 2, 3, prova radio. E ok, Santiago 4. Quindi è diminuito da 6, mi ha detto che era Santiago 6, guarda me li metto così adesso. Dimmi se sta aumentando un pochettino, 1, 2, 3, prova radio. E oscilla, vabbè, capito, non è che oscilla, quando modulo intende arrivare a quali a 6. È a portata fissa, guarda. E 5. No, voglio capire se ti viene bene, sono pazienza, lasciamo perdere. Allora, guardami questa posizione, voglio capire dove è che aumenta. Allora, adesso ti lascio portante fissa in questa posizione qua. Memorizza, mi dai Santiago, 5 mi ha detto. Ma è la portante di nuovo che mi guardo per lo smitter. Quant'è? È 5. detto così vediamo se diminuisce Santiago o se è stabile. Mi sposto di qualche grado, circa 20 gradi. Diminuito 1. Allora, aspetta un po'. Questa posizione è importante e fissa. Sì, su 5 ero questo. Aspetta, faccio una controprova, mi sposto un po' più avanti e mi dici se diminuisce ancora. Diminuito? Sì, così ero bello, lo so muovere così. Sempre 5, guarda, portante fissa. Sì, 5, 5. Allora, questa è la posizione della zona attuale, adesso mi memorizzo questa posizione, poi adesso ritorno con l'altra, comunque, aspetta un attimo. Così? A 9.15. Ok, aspetta che segno, scusami un secondino che mi segno, parla nel frattempo, se parla, che mi segno questa posizione qua, così che sono orientato a muro, sono in quella posizione. Ok, se trovano bene il telefono, sta squillando, mi stanno chiamando, rimane in quel che si chiama e chi è forse papo, un attimino e poi riprendo, non ce l'ho mai. Vai, vai. Ciupaccio, ciupaccio. Buonasera a lei. Puntami la direttiva che ti faccio schiattare. Te la bongate e ti scioglio l'impianto. No, stavo capendo dove il cavolo risulta muroso rispetto all'antenna mia. Aspetta che facciamo una freccetta. No, perché c'ho una scala graduata nel corso. E ci scriviamo muros qua. Così ci ricordiamo quando dobbiamo fare i collegamenti internazionali con muros. Sì, basta portare Eusi e lo riempiamo noi. È un po' più giù di dove la posizione che siamo meno isolata di Alghera. A te, molto ti cala il segnale, guardami questa posizione, Antone. Così e così. Com'è? Parecchio, parecchio. E se torniamo tutto a campo base e rimettiamo tutto a posto. Adesso siamo tornati noi. Adesso sì, tu. Quando ti arrivo a te nel tuo baracchino? Quasi 9.30 sera. Ah, non arrivo a 9.30? Figurati, pensavo di più che eravamo così vicini. Ho terminato, però sai che non è come il baracchino. Quando arrivi 9.50. Capito? Allora, vedi tu bippi tutto, bili bili bili. Terminando che c'è il bippi fatto azioni. Il bip con l'ecco. Se avevo avuto il bip delle 24 te l'avrebbe detto, te la bip in col. Sembra che lo dica così proprio, va. Così a me. Ne avevo fatto 4 di baracchini così. C'era già due filo uno di quei baracchini con un bip così e il microfono F24. Quando schiacciava la faceva, te la bip in col. A me pare che si diceva veramente così. Vedi che sono solo qua. Ma parla quello di Stefano, vabbè, Stefano ormai non sappiamo nulla, non so che fine abbia fatto quel baracchino. C'era quello mio, quello di Stefano, che erano uguali di Bippi, Angelo Delfino e Andrea Manicomio. Basta. E a Bippi erano tutti quanti fatti diversamente. Andrea Manicomio. E a te lo ricordi? No, l'unico manicomio era Luca, in periodo lo chiamavamo Luca Manicomio, però vabbè ci sono da poco, non lo so. Quando si fa il nome, Luca Manicomio. Naturalmente Luca, no, io ti ho sempre chiamato Luca, non posso giudicare, diciamo, non ho mai, però qualcuno ti chiamava Luca Manicomio. Me ne faccio occasione, sono a Mutuaco. C'era Andrea Manicomio, l'ho conosciuto pure di persona. No, non lo ricordo, c'era una fiatura appunto. Ehi, infatti. Ah, già c'era il BP così, con il F24 va a te, la BD in culo. Non 24 della... adesso magari non sono neanche più vendendo dell'ala. Quello si chiama quello. C'è il BP doppio di già microfono, più BP di baracchino, però una cosa. Avevamo un po' di gente, ci volevamo il BP la verità. Fate Angelo Delfino e il BP 411 aveva Gemmi Bravo 2, un altro uso ce l'aveva e invece Roberto Bertolina ce l'aveva il BP del baracchino più il BP della Saverta. Faceva attire lui. Cioè, quattro BP non l'avevo mai intese. Tra le cose tu l'hai conosciuto, forse anche Luca, è un certo Super Pippo. Super Pippo, no? Quello che c'è al laboratorio vicino all'università. No, non ricordo io. Tu, Giuseppe si chiama di nome? Io già mi ricordo, c'è Heidi, Super Pippo, poi c'è la Forza Burgos. Quello lì c'è ancora il 440. Mi ha detto che lui si vantava di avere la stazione più potente della provincia di Sassari. E poi andare a quei casi. E lui era la polizia. Abitava la polizia, ma ci va neanche la metà di quanto ci va un sacco di altra gente a Puttidini. No, ma ha detto lui, a te ti ho sentito modulare. Ma te non mi hai sentito? Siccome lui non entra, ma stiamo parlando di un paio d'anni fa, mi pare, e mi ha detto ti ho sentito in radio, perché tu come ti chiami? No, io sono anni che non entro più, però c'avevo la stazione più potente della provincia di Sassari, non so dove antivate va via, dici. E via una cucca si va. Lui ci fronte proprio di Sassari eravamo, anzi, noi eravamo, perché adesso Walter non sta più entrando in 26, c'era Walter, Gianni. Gianni non è sole, Marco c'è un 31, Angelo Delfino, io abitavo in via di Sedo, ci bomba molto, molto forte, e Claudio, a parte poi lo sciopero del Monte, che lo sciopero ci va forte, Vittorio è buono, bene avanti forti, la provincia di Sassari. Adriano pure un periodo dice che usciva forte. Chi? Adriano. Adriano chi? Adriano quello che entra qua in frequenza, non so come ti diciamo di cognome. Adriano ci aveva fatto il sì, se con questa la metà lì a Ponte Rosello. Ci ha fatto lo stesso. Anche Luca c'è per questo. È una zona buona quella. No, io sto parlando di uscire con potente, no uscire con il baracchino, no, gente che c'aveva 500-600 watt, gente a quel livello, non con il baracchino. Vabbè, che certo, anche io uscivo con 500-600 watt. Andiamo che fuori facevo la guerra a cosa, al ghero, io Claudio facevamo scattare al ghero, perché facevamo il muro di Berlino. Poi c'era anche altra gente, pochi ma buoni. Ma perché Gianni Nuno e Sole usciva forte? Ma forte perché c'era una buona posizione o perché ne va via potenza? No, usciva bene, la verità. Non è che c'era questa potenza, però usciva benissimo. La donna che dove sei tu esce bene, non è che esce male. La verità, perché la donna c'è buona, non è che sia una donna schifosa. Non è tanto alta, ma più che altro c'è il punto buono. Io in via del Tredo ero molto più basso di dove sono adesso, per dire, e dopo confermare anche Luca, e uscivo molto più forte di dove esco adesso, perché io collegavo mezzo Sardegna, compreso qui da Cido, io parlavo liscio, no, attaccato, parlavo da liscio, arrivavo Santiago 5, attaccato Santiago 7. Adesso prima c'erano altri discorsi di potenza, perché non c'era tutto l'inquinamento elettromagnetico che c'è adesso, allora se non pone potenza non andrà nessuno a bassi, per dire, già lo sapevo, anche nelle radio private prima con 50 watt ti accusava in tutto il mondo, adesso devi avere dai 200 in su per farti sentire discretamente e non bastano neanche. Ok, avanti Luca, tu quanti kilowatt stai uscendo adesso? 8 kilowatt e mezzo, quasi 9. Come schiacci portate si abbassano le luci di casa? E la tua? Figurati con quella che stai uscendo, stai assorbendo più dalla cabina a tre funi, la cabina elettrica. Ma no, massimo sono uscito, quanto era l'amplificatore? 100 watt, di più, 200. No, a me non mi è mai fatto, me ne avevano prestato uno a tenerlo a riposo, mi pare che era 600 watt. Ma mai provato, forse una volta l'ho messo in funzione a valvole, però non mi sono confidato. Ci aveva avuto un paio di anni conservato dentro un armadio, ha detto guarda che se me la acciappano qua, non ne ho mai usato, ma che bisogno c'è tanto? Anche con 5-10 watt arrivi bene lo stesso. Sì, ma infatti è così, capito? È così, con pochi watt si va avanti tranquillamente. Io ho sentito uno di Alghero che aveva fatto la prova con un kilowatt l'Alghero, ma era una cosa allucinante, ogni segnale, roba 9.30 arrivava qua, con un kilowatt. Addirittura. Lo sto dicendo, qua Alghero arriva a 9.10, tipo Pinaggio 9.10, 9.15, però lì è arrivato il segnale 9.30 l'Alghero, ha fatto la prova mia, adesso sto attaccando, in AM, in FM non mi va vedendo. Poi diciamo che non è poco, sono 2.30. Sì, e poi una volta ha attaccato una persona, un radioamatore, io non so cosa possa aver attaccato il giorno, quanti kilowatt ce l'aveva, ma secondo me era superiore ai 3 kilowatt di potenza. Mai ricevuto un segnale così forte da quelle posizioni lì. Per dire, Claudio si arriva a 9.50, però è attaccato a me. Però arrivare un segnale a fondo scala da una posizione zona tua, senza far nome di chi è, non era mai successo a nessuno. Luca. Sì, ma quello non è privato, Luca. Sì, ma ha fatto una prova, per dire 9.20, poi di colpo attacca, arriva a 9.50, cosa era dato di potenza? Io ho capito di chi stai parlando, ma quello c'ha roba sotto le scarpe, non è come me, no, che è povero, lui la roba ce l'ha, c'ha dei calici che io ho capito di se si può divertire anche, tutte cose come quello che c'è a casa, e quindi se attacca uno, 3 kW, è logico con 3 kW che poi avere un segnalone. Prova liscio a vedere, a fare prove. La liscio ci si ripete molto di più, la verità. Se io me ne vado in diretta di macchina, per dire, me ne vado un mito, faccio il maricone, ma c'è dove c'è il campo sportivo, e metto lì una Grand Prix, che è una Grand Prix con palla a 4 metri, scomito che vuole molto più forte di te, c'è a Sardegna. E mai riesce a trovare il passaggio, no, lo so, è così, infatti è strano, la Leone, la propagazione è molto strana. Noi con Salvatore Maestrale ci mettevamo apposta in FM con 100 milliwatt e ci ascoltavamo perfettamente, ci ascoltavamo in un canale che non c'era nessuno con 100 milliwatt, proprio per fare le prove a vedere il limite minimo di potenza, e ci ascoltavamo perfettamente in FM però fatto. Per cui le potenze esagerate non servono a nulla, perché lui dice tu c'hai 3 kg e l'altro cacchio c'ha 5 watt, tu ti fai ascoltare però lui non ti può rispondere. Lo so, ci sono i punti a Sassari, c'è via, come si chiama, via Rockefeller, la macchina di fornitore dell'Agip, lì è un punto buono, poi c'è via Fratello di Rizzetto, che è buona, dove c'è Claudio Rotterdam. C'è tutto il centro Sardegna aperto, invece se tu vai agli punti in via Domenico Mideriera, vicino a dove abitava il padre di parte, lì parli con chi vuoi in gallura, non c'è niente da fare, è un punto aperto, perché ho provato già io un po' KF parecchie volte e lì parlavo con Genova tranquillo, come ti mettevi che c'è il parcheggio che le ragazze prendono il punto, allora per la mola lì in via Domenico Mideriera parli con chi ti fa ti piace. In V, figurati, con sicuro, con 25 watt. Sì, non lo so. Comunque, quella persona che ho detto io, c'ha una bella posizione anche lui, non scherza. Così, vabbè, meglio di niente, comunque. Solo che abita a cosa, quella persona che sei ce l'ho tu, poi l'altro l'ha persa. E proprio via Baldetta, cioè via cosa in fondo, proprio il monte, prendo la vicina a Talino. Lì il punto più alto che c'era, vicino al supermercato di Menunca, ex Menunca, quello è il punto bello, tutto aperto, e vedi tutto quanto aperto la zona del mare, Casa del Sardo, eccetera, eccetera, lì rispondi dove vuoi, e poi c'è la parte del canale di Usilo, diciamo, perché c'è Usilo, si tiene sul tuo altro fianco, quindi c'è niente per forza. Ok, vediamo se è entrato qualcuno nel frattempo nel canale 10, attenzione che vuole entrare. Attento sogno. Quello mi ha detto me. Funtumato dice d'altro l'ho detto, ma Falchetto morto, ha battuto l'anno. Ciao, mi sentite a tutta la ruota. Eia, ok, c'è anche Luca, se non si è disperso. Avanti Luca. Io sono qua, va. Ciao Falchetto, mi sentito. Sono qua attivo al computer, ti faccio una cosettina e poi rispondo, vai. Riprendi tu qualche. Certo, l'hai sentito anche a Luca. Eh sì, state parlando di posizioni, io ho appena acceso, sono appena arrivato, sono fatto un mazzo della Madonna, non ci siamo. Niente, ho seguito un po' il discorso, ma proprio un pochino, pochino, ciao anche a Pomponia, mi ha ascoltato Roberto, che ha tutta la notte. Niente, niente, riprendete così, ascolto meglio e posso anche dire la mia, dai. Certo, ok. E quando sono andato per l'esame della patente, Antonè, a Calangari c'erano questi tipi cibit, però probabilmente parlavano anche in altre bande come Pirattoni, e stavano, quello lì aveva 500 watt, quello, ma cioè, secondo me era una cosa esagerata, 1000 watt, infatti là non hai visto nulla. Basta venire dalle parti nostre, c'è gente che ha 3 kW e mezzo, tranquillo, tranquillo. No, non è possibile, perché non è possibile. Basta venire. Ce n'è abbastanza, non niente preoccupare nelle abitazioni. C'è gente che c'ha anche 2-3 kW. Come cosa fai? No, no, a me non interessa più, a me. Che ne so, 600, 700. Sopo il bevuto 1001, quello a valvole io. E facevo scherzare al ghetto, lo usavo solo per quello. Sono arrivato al punto di usare io quel lineare lì con qualcosa, col gimbal, perché era bello, col gimbal mi divertivo, siccome c'era ti puoi spostare di frequenza piano piano, ma andavo in ballo laterale, fischiavo, facevo e loro riuscivano a parlare uno con l'altro, a distanza di 100 metri uno all'altro, cosa 100 watt io mi. Tutto vicino perché l'ho fatto, è vero. Ti facevo schiattare vicino di casa, a 100 metri uno all'altro, non li facevo modulare. Sì, amico. Vabbè, prima ci facevamo le guerre, ormai sono 4 gatti. Siamo 4 gatti, a me non ce ne sono più. Già c'è stato un periodo che c'era qualcuno che attaccava potenza, non so se ti ricordi, i nomi non si fanno mai, però ogni tanto già si vedeva qualche segnalone, quando parlava uno lo schiacciavano. Qui facevamo le gare, facevamo, fino una volta, mai mi sono incazzato. Facevo l'occhetto, passo, passo l'occhetto. Prima volta che abbiamo fatto in macchina, in stazione fissa, andiamo di corso, poi andavo abbozzato, facevo salire al quadrato, lo facevo un po' scendere, non abitavo di rizzito, facevo tre antenne, anzi, più di tre. C'era una direttiva di quelle dei camette che la giravo con i fili così, con i fili di nylon io, attaccato al palo, quando è uscito in capo. Io mettevo la portata, facevo salire su al quadrato, facevo uscire di nuovo giù al tuo di piamento, ma poi facevo nuovo salire su e l'ha giocato gli scherzi. Mi divertivo parecchio, facevo un sacco di antenne allora, in quel palazzo. Qua non la posso permettere, ma dove abitavo prima c'avevo tutto il tetto era mio. E quindi potevo tenere 5-6 antenne, figurati tu. No, a me che mi blocca sono le calate, perché devi fare 40 metri di campo. Io ne ho tre di antenne collegate, funzionanti tutti e tre. Ma anche io posso bleffare, nel senso ti posso cambiare i segnali, ma con una bici tu. Passo da direttiva, mi giro la direttiva dalla parte opposta, metto la multibanda oppure la mantova, ti cambio i segnali e posso fregare un po' di gente, ma non me ne ha fatto nulla. Una volta mi ha falchetto la giubilata in giro, altrimenti falchetto. Ho messo la cosa, come si chiama, la multibanda, parlando in spagnolo, lui dice, propaganda, ha detto, adelante, Sassari, avanti, ed era convinto che ero spagnolo, alla fine ha detto, fini da qualche. Anche a me qualche volta mi ha mezzo buttito un natalino, qualcuno del genere, però alla fine già l'ho scoperto, quando inizia a parlare poi si intrippa. Una di mi ha fatto ridere Claudio, che a giorno mi stavo pisciando alle risate. C'erano questi qua di Furi, che stavano parlando, non so di che zona era, nel continente. E dice, tu dove sei qua? No, stiamo piazzando un palco. sono con un portatile. Cavolo, che forte! E solo che ne sono caduto dalla scala, mi sono troncato la gamba, sono seduto. Cata, che tu convinto va a vedere una risata al giorno. Era, stava installando un palco per un concerto, ne è caduto tutta la scala e stava facendo l'anca, era in una sedia a rotelle con un portatile. Ecco, tratta me che sta arrivando forte. Siamo abbastanza inutile, quando state a ciappi il pollo, cacchio, molte volte. Anche da poco ne ho sentito uno, Bovarino, non so cosa l'avete detto, l'avete preso in giro, non mi ricordo chi era. Giuseppe, Chi Giuseppe? Giuseppe, l'amico di Bopone. E cosa avevi? No, non mi ricordo che cosa è stato detto, ma stavo prendendo in giro. Ah, no, mi spacciavo come Antonio, come Porchetto, e lui rispondeva a tutti e due. Ah, così, Eia, vai Antonio. Preparato la cadria. Preparato dentro il gozzo, da un stagione. C'era Capri 2, attenzione Capri 2, se non te ne sei davanti la riparti. La parola mi ha detto un attimo nel telefono, telefonata lunga. Ok, c'era anche Luca dalla zona del monte, avanti Luca. Luca del monte. Ui, ai, ai, io sono un bel fracco oggi, stamattina ho dormito un bel male ieri notte, ero tutto il giorno suonato già. E io tutta l'aria, ma ti ha capito, o quando scendo dalla cantiere, e sono dovuto scendere a cercare un po' le olive per portarle al macino. Cazzo con voce, sono. Dove stai andando? Anche in che zona c'è la cantiere? In via Adis. Vabbè, c'è abbastanza vicino, eh. In moto sei andato? Sì, in moto sto andando, un motorino. Ui. La cosa è ristrutturazione o cosa? È ristrutturazione di un palazzo, se piano. E vabbè, il palazzo che bisogna trovare, è brutto se non ce n'è. Ah, quello sì, è brutto se non ce n'è. Eglia. C'è una chiamata su 10, attenzione 10, chi vuole entrare è avanti con la buonasera. Claudio, è Claudio. Oh, Claudio, l'ho sentito un'oretta fa. Io ce l'ho acceso da esattamente da 2 ore e 27 minuti il baracchino, ho fatto una pausa di 20 minuti per mangiare, quando sono entrato c'era Claudio un po' di gente, poi ho chiuso, sono andato a mangiare, sono rientrato e Claudio ha detto sono al computer, ho sentito un attimino, è stato Crapri nel frattempo, c'era Domenico e basta, poi non so come sia andata a finire, se è in ascolto o cosa sta facendo. Scappa dell'olio. Oh, fa che io me ne ando a chiesa con un bel fracco oggi, ti saluto, chissà se ci siamo sentiti poco, ma la prossima volta avremo modo di sentirci di più, se c'è Antonello, se risponde, lo saluto, se no ci sentiamo alle prossime a tutti, ciao ciao, buona volta da parte mia, io vado a caricarmi che sono un bel fracco. Positiva, buonanotte, buon tutto, e ce lo riascoltiamo le prossime, vai. Io invece quando devo dare l'esame l'ho dato da privatista, no? Sono andato con mio suocero con l'8.50 che se non mi hanno accettata perché dice che non c'aveva le masse sincronizzate, allora via a prendere la macchina nuova, meno male si aveva comprato la punta nuova, l'abbiamo detto non me ne voleva dare il punto, no la macchina è nuova e io stavo già facendo l'esame, non me ne voleva portare. Come ci punta la data? Avevo paura che mi rasfasciassi. Sì, sì. Si punta, la sua è andata, sì. Sì, sì, poi me l'ha data perché mia suocera si è messa in mezzo, andate. E l'esame l'ho promosso, sono stato promosso. Sono privati chi sta? Scappa. Quante errori ho fatto? Poi ho fatto le domande che ha fatto, in croce soprattutto, mamma mia. Mamma mia, ragazzi, dopo di vetti di transito, e poi... adesso non mi ricordo, anche se comunque non vai già, mi ha portato questa cosa, mamma mia, quindi... Cioè, su un cartello ha fatto 50 le domande. Devo vedere quando ho fatto quella della revisione io. Cazzo, già mi hanno fatto troppo di cose, di cartelle, di cose in croce. Revisione? Poi la revisione di patente ho fatto io. Te lo dico che ho avuto quell'incidente vicino a Roberto Meccanico. Vale. Se tu l'hai preso 30 anni fa, la punta non c'era 30 anni fa. Infatti era la revisione di patente quella lì. Ah, allora ok. La revisione ho fatto con mio suocero. Ok. E prima infatti mi ha voluto dare l'850 che ce l'aveva ancora per fare la revisione, invece non andava bene perché le macchine erano sincronizzate e ho dovuto tornare a casa a lasciare quella e prendere la macchina nuova di zecca, avvertita 2 giorni. Siamo alla 1 con lo suocero. Eia. Non l'ha avuto. 1, la 1, volevo dire non appunto. Da 1, 75 era. Come dopo la pubblicità, una macchina, che macchina? Peugeot, una Peugeot messa a magliera. Cazzo, 304 cavalli, minchia, la cammina, no? Ma che? Un imbecille di macchina, 304 cavalli, lavora, non cammina. E lui, ma se ti andare tanto lontano, la grande punto, cazzo, è proprio un cammino, cazzo, l'Abbat, quella, la grande punto Abbat è un bullying, non riesco neanche a attaccare le ruote a terra quando cambia le mani. Ehi, Enrico, vola. Abbiamo visto al quadrato, vedi l'antù. Vola. Ce l'hai presente le scintille, sta uscendo dalle gomme. È possibile che ci fanno scintillare dalle gomme, la mamma mi piace, ma non è dai gomme. Vabbè, modo di dire, un fiacco di gomma che non ti dico, una potenza allucinante. Lui cambiava marcia e non attaccava a terra da quanto girava. E' bene la punta a parte. Sgommava da una marcia là. Bella, l'ho vista, cazzo, proprio, e là c'era anche un pozzo. Io ho visto anche la Golf Abbat, madonna, mi ha pensato già, cosa farà, vedrai l'antuna, farà. Volta nuova, fiammata, va bene, dai, Abbat. Io ho avuto la 500 Django, ti parlo di quando ero ragazzo, vai, la prima macchina che ho avuto è stata la 500 Gianni. 500 c'è pure Abbat. Ma era tutta diversa dalla 500 normale, ci aveva contagiri, tutto quanto, ci aveva tre strumenti davanti, contagiri, pressione olio, tutto quanto ci aveva dentro. Era tutta diversa, volantino piccolo, ruote abbassate, cazzo poco camminava, faceva i 9 al litro, però faceva 130 e salita quella macchina. E poi un giorno sono andato a scuola elettrauto, forse tu non l'hai conosciuto, in viale Porto Torres dove c'è BDC Racing, sotto c'era un elettrauto, adesso non so se esista ancora. E sono andato perché mi faceva un contatto. Sono andato, stavo passando lì, sono andato di giù. E vedo questo castellone grande con questa 500 tutta quanta a scaschi. Cazzo, tutto bella questa macchina, guardo la targa, cazzo mi sembra la targa della macchina mia questa qua, perché questa qui è la macchina che correva, che preparavo io. Yeah. Allora, io ho lavorato tanti anni fa, sarà una ventina circa, lì, non so se l'hai conosciuto anche tu, c'era un tornitore, motoseghe, taglia erba, queste cose qua. Si chiamava, aspetta, Rubato mi sembra. Lì scende a parte da dal coso, dal dalla ferrovia, no, lì, girava, come scende i giraffi, lì sulla tua sinistra, apparentemente dove era pronto c'era il coso, il tornitore. Sarà di Rubato? No, io era caprottone se già. Ah, è via del Polottore. Lì, io ho lavorato lì. Per poco, ma ci ho lavorato. Ma ti provi 20 anni fa, Gappa. Comunque quella macchina lì camminava, solo che consumava un bel. Consumava un bel senso mangiare. Perché non lo guardava la maglietta, aspetta. Ho fatto un miliccaldo oggi, ci ho messo il come si chiama? Il proprio misura la temperatura. Cacchio, 31 gradi mi ha segnato. Davvero? Sì, scusate, non capire mai che cosa è morto stamattina. Io ci mi sono ritirato la macchina, l'avevo fatta. Cambiato tutto, cinghia di distribuzione, cuscinetti, almeno sono tranquillo, tagliando, filtri, eccetera, eccetera. Ma sai, lo zocco? 370 euro. Certo, non ti ho preso molto, dai. Insomma, si è preso il giusto. No, è onesto, dai, è onesto quello dove sono andato io. Mi ha detto che di prepararmi che i freni c'hanno il 20% le pastiglie, di usarmene ancora qualche settimana per portarle. Vabbè, ma le poteva fare io, guarda, per il 20% le avrei, le avevi aggavate, le avevi buttate giù, me le ha puste, non dovevo uscire a tornare. E ora allora ci mette un attimo che mette la partita, mica ci mette chissà quanto. Già. Se finché dura, ti fanno una settimana. Poi ti possono fare 2 settimane, capito? E mi ha detto il 20% c'è. Preparati che fra poco sono a cambiare, quindi. Se potevi cambiare per non lasciare, per non. Dice che potevi ancora farcela a non cambiare. Dice è un peccato cambiare quando ancora non ci fu. Vabbè. Oh vabbè, già. Allora, ti dici un po'. Come ti trovo più o meno le pastiglie? La coppia. Qua io pastiglie le consumo poco e niente, perché freni ne uso poco. Faccio strada lunga, in città poco la uso, per cui i freni li uso molto poco, mi fanno un bel po' di chilometri, non so quanto esattamente, però mi fanno un bel po' di chilometri, non è vero che il meccanico mi ha detto c'è i piedi d'oro, caso te lo cambiate un bel po' di chilometri fa e sono ancora nuove, e ho detto non è questo dei piedi d'oro, è che faccio chilometri in lunghezza, non so quelli che si chiede sempre freni, perché io uso le marce, scalo, faccio, ci sono quelli che invece di usare le marce usano i freni. Beh, non bisogna solo una marcia, scalano la marcia. Ma sto rallentando, capito? Sto con il freno e poi io con lo sto scalando. Sì, ma una cosa è toccare un po', una cosa è frenare il goi, mentre stai correndo, allora il consumo alla fine è molto di più. Diciamo le bruci, va. Allora. Beh, Antoine. Chiappa, in genere le pastiglie dovrebbero durare 20.000 km, dovrebbero fare. Dipende quanto è usurato il disco. Poi ci sono quelli che ne fanno anche di più, 30.000, forse può arrivare al massimo. E dipende come le usi, non è solo il disco. Dipende anche come le usi, se sei sempre frenendo, se in città devi stare sempre frenando, semafori, questo, quell'altro, e gente che non ti dà la precedenza, freni di colpo. Insomma, non è la stessa cosa che fare una strada lunga e non dover mai frenare. E quello è il problema, dipende come usi la macchina. Ciappa. Sì. E allora il motocarro ci fanno un bel chilometro, vabbè, sono freni a tamburo. Guai, ci avremmo avuto la macchina, guai, ci sono stati sempre giambelli, poi carichi, mamma mia. Ma i freni a tamburo durano un bel, infatti sono ideato questa disca, ma quelli a tamburo durano molto di più. Sono più sicuri quelli a disco. E sono più all'avanguardia, eh. Con quella tamburo secondo me quando si arriva a un certo chilometraggio a certe velocità sono anche un pochettino pericolosi. Comunque io ti sto dicendo una cosa, l'altro giorno sono arrivato al semaforo, vado a frenare, invece fa il pedale duro, il pedale duro non frenava la macchina, mi sono cagato di sotto, prendo il bongo la prima, la giù fatta rallentare la marcia, e ce l'ho fatta così così, e mi è successo già due volte, le ho detto al meccanico, ma che cosa può essere di peso, è dall'usura dei freni, allora già bambini. Vediamo che, cioè, che non sia la bomba invece puro. Ah. Tante volte sono anche quei tubicini che ci sono, che si intasa. Ci può essere nel cazzo. Ho un tubo intasato, tipo fare uno scherzo, Da molto senza cambiare l'olio nel circuito. Non le cambio mai io, non ne ho né aggiunto né cambiato mai, è sempre uguale. Non può farlo, deve aggiungere al meccanico, perché adesso quando ti cambia i freni ne salta un po' fuori, perché deve far tornare il pistoncino dentro. Vabbè, quando lo farà, però io non ne ho mai aggiunto, io di persona, a meno che me l'hanno fatto quando facevo italiano, ma io di persona non ne ho mai aggiunto perché mi venne sempre giusto. Perché se lo mette lui, se lo mette. Non lo so, quando io faccio italiano magari lo aggiungono loro, ma io quando l'ho controllato era sempre giusto. Quello che consuma un po' di più è il liquido del radiatore, che prima magari li aggiungevo molto meno, adesso qualcosa in più, non dico tanto, ma qualche cosina in più la aggiungo per da quando ho l'impianto a gas che il bulbo raffredda col liquido. Anche se vede. Non è inteso. No. È lo zocco. Ah, il martello, sì. Scappa. Lasciamoli fare, va. E carina. Prima era un castigato, era. Da quella abbiamo risposto. Ah, non si è toccato un muro, non si è toccato un muro, dalle toccate. Allora, mi ha occupato di fare a palla, me ne passa. Porta appuntamento a domani. Forse vedo il giramento di carte, la persecuzione mai. Via. Questa è la persecuzione, vanto, di toccare un muro di su a fianco. Sì. Non vuole un problema di nessuno. Però posso se criare a tuo mondo. Canto, nulla. Mi dico qualcosa che, secondo che ora è, mamma entra a comprare scatole. Questi qua vicino a me niente. Mai qua. A parte questi muri qua sono molto grossi, sono cantoni. No, a me sì, a vista. I muri sono sottili, i muri sono molto grossi, già, capito? E questo qua c'è dietro io, a testa mia, cioè dove appoggio la testa, diciamo, no? Dove appoggio la testa? Dove appoggio, diciamo, la parte di dietro, ecco. Questo qua è il muro, è molto sarabo, cazzo mi sono un metro, grosso. Ma c'è gente che è intollerante, brutto, non è questione di muro, no? Io il rumore, sai quando se ne sento a casa, è quello che fa l'imprenditore edile, quando non c'è lavoro si fa lavori a casa sua, sta sempre per un cantiere fisso, e trappano gli sull'indata, ma io vivo e lascio vivere, io convivo con le persone, interessante che mi lasciano in base a me. Ma ci sono sempre quelli che sono insofferenti, che sono nevrotici già di per sé. Luca già lo conosce, cara. Crizia. Ma Luca, buongiorno, sai, cara. Conosci. Aspetta che sta mandando un messaggio. Ma sopra? Di sopra? Oh, il signor Fisce. Sei sopra. Allora usiamo gli fish in inglese. Pesce. Ehi, si un pesce, non mi state mai te. No, state sopra. Perché no? Ma secondo me risulta sopra di te. Non sotto. Ma se. Di fronte. Di lato di te, di come piano. Ora sei sempre. E vabbè. Quasi compreso. Ma che affa. Cazzo, ma ne passa. Abbiamo fatto. Con macchine forse in capo. Dici che lo dici un po' anche col computer, lo sapevo di fare. Ti disciuba. Facciamoci di balle. Io prima disturbavo la radio, questa qua, la TV e il telefono. Cosa? Dici che un computer mio lo disciuba il suo. Sì, sì. Mi disciuba. Meriaia. Cis, cis. Che era poveraccio, che non c'è più a te. Sì, ma non può rompere il cazzo che lascia. E scusati. Così, il caro Gianni è un casino. Cosa la faccio? Quando salgo, lo cambio il palco, sai che ho detto che è un sottile. Non è un sottile, ma cazzo qua se non ne uso una finta. Perché il capo è cambiato. Cosa? Il capo devi cambiare. Sai che me lo cambio, sì. Che? Poi è un casino questo cavo grosso, mamma, fai la rifare il PL, mamma, vedeva 10 luci. Lo so. Io ho sempre odiato, ma figurati un po'. Io perché? Se volevo non lo potevo comprare, se non mi piaceva, poi devi fare il buco troppo grande per farlo entrare, no. Già lo so. Lo so. Anda, tutto qui, come vi sto modulando, come ha detto Antonio, di lui amante della Gesù. Antonio, mandi. Come ha detto Antonio, è amante. Beh, per noi da capo la frequenza isolato già, internazionale. No, negativo, non ho memorizzato. Lo devo cercare dove l'ho scritto e lo devo memorizzare. Perché io l'ascoltavo molto spesso. Allora, 431.2375. 431.275. E adesso me lo scrivo, aspetta. 431.2375. Maria ci aveva fatto 4 bene, cara. Eh? Robbere sembrava che abbia fatto. 431, Antonio, su, rispondi. E qua? Su. Come scrivere mandato. Sto abbassando, non ci ho abbassato. Si può traslare, lo sai. Lo so. Ma per me, a meno che non mi sono sufficiente, magari pignola. Sì, sì, guarda a me. Occupa la palla che mi basta. No, a me. Ma non guarisci una a me. Capito? Non mi frega niente. Poi si è rotto le palle, baracchino, lo sai, no, una tira più già, no, era, prima era più divertente. Hanno fatto in modo che si sconciasse tutto quanto. Ma per quello non c'è più dialogo, non c'è, era diversa la cosa. È proprio un morturio, ho capito, un morturio. Ma lo volevo diversamente prima, solo è un... non c'è nulla, non c'è più nulla. Tutto è tutto. E ora che ti si pone di antenne nuova, antenna nuova, capo nuovo, ecco, se non ti piace di... vabbè, faccio un po' indeciso, capito? Sono un po' indeciso. E che posso dire, è ovvio. Tra questo e quello 500 euro ci sono già, poi senza levare il baracchino, però il baracchino posso dare 150 euro così come con microfono a tavolo. Ui ui, e cosa te ne fai di 500 euro? In due giorni non ce ne hai più, non vai né il sacco né il sale. No, non è per esecuzione, se non me la futti nulla. E se la vita mai già venduti, è quello, per il 500. Ma ci puoi sentire, che non lo so. Ah, mi dimmo su. Arrivo subito che vado al bagno, ripeti tu a tu. Ma già lo sai, non mi ha messo più come se bisogna far mandare un messaggio. Dove? Su Facebook. Va. Tu mandi il messaggio, cerchi il mio coso, mandi il messaggio, che se ti scrivono che non sono in linea te lo mandano lo stesso. Ti ho detto che non mi ricordo come cavolo si faceva a mandare il messaggio, c'è un volto di memoria. E a futtittini, dai, me lo mandi un altro giorno. Io non le mando mai messaggi, non me lo ricordo manco io come si fa. Devo vedere il computer, se vedo il computer già lo so fare. Poi adesso vado un po'. Ma puoi mandare anche con Messenger. Con Messenger pure lo puoi mandare. Io di chi sono un maggio? Ah no. No. Dopo. Provavo un'altra cosa, invece mi ha messo. Poi sono tu. Provo a fare un'altra cosa, provo ad andare sul tuo profilo a vedere cosa mi fa. Eliminato perché mi ha rotto le palle. Chi? E lui sì, non me ne ammetto come ti cavolo si chiamava, ma... ma è di vecchia. Gente che conosco io? No, non è che capisco. Perché devo dirti no? No, no. Sono molto... non accetto molto di amicizia. Illumi. Lo stesso. Io se li conosco e ritengo che meritino da me, li aggiungo, ma se no quanto... perché se li conosco e non mi piacciono, non li metto. Oh, guarda, adesso ho capito. Mi dice scritto via messaggio. Ma gaffa. Aspetta un attimo che piglio il telefono e te lo mando. Gaffa. Vabbè. Provato subito, Cara, bravo. Aspetta un attimo che te lo scrivo. Quanto mi gaffa? Sì, miro, se non sbaglio poi non ci riesco. Vai. adesso me lo torno a ricontrollare e poi invio tutto. Bene, bene. Ui. Sto qua, fatto. Bravissimo. Beh, adesso attacchiamo un po' l'esse. Dritto, ok, cara. Mi sa che attacchiamo l'esse nostra, dai. Facciamo scaldare, no? Attacca, attacca. Attacco il telefono a caricare. Aspetta che Marco si sposa, se lo busca adesso. Vai, che io ritiro questa roba. E gli piace fare dispettucci a Marcolino. Combinato. No, è che quando mi sposto dal letto si vede la parte mia. Oh, qui ti scala il sederino. Che balle, mamma mia. Però lo fai svegliare. Oh, già è svegliato, sta leggendo il libro. La lucetta accesa, che già mi disturba quello. Ah, la basura accesa, già mi disturba quello. Non ti piace? No, a me mi piace stare al buio con le luci blu. Io le luci blu nella palazzo, tu non lo sai, ma è così. Fatte dall'arte, tutti e due. Blu, apparecchio luci blu. So tutto. Oh, yeah. Bello che ci hanno entrato. Come lo senti? Quest'ultima cosa, ho inviato i dati e via. Bene, bene. Già va bene. Maniera intelligente e sicura. È fatto bene. Va, meglio il messaggio. Dopo, quando mia moglie molla, lo ha vedere. Cabra. Un giorno ho pubblicato, ho fatto uno sbaglio e l'ho pubblicata una cosa che devo dire, il messaggio. Anche un bel parolaccio, meno male mi sono accorto, l'ho tolto subito. Assolutamente, manca a pensarle. E pomeriggio, lo so che Giuseppe le tiene bene le cose, ma magari per l'energia elettrica, come cavolo fa a sapere se sta passando da 220 o sta passando da 380, per dirti. Ma cavolo fa a passare con la corrente lì? Un modo di dire, tanto gli sbatti di corrente li conosce. Cazzo, ma boh, è difficile. Adesso te ne dico una. Abbiamo vinto. C'erano gli operai dell'Enel giù che stavano facendo un lavoro. Non hanno né avvisato né niente di staccare la luce. Allora gli è partito un computer, lo stereo che lo stava ascoltando, nel computer c'era la moglie e il televisore che era acceso, tutti e tre li sono partiti. Si è dovuto mettere la boccata, si è sceso giù e gli ha detto: ma voi cosa state facendo qua? Stiamo facendo dei lavori, cazzo, mi è partito tutto quanto a casa. E vabbè, facciamo una... è successo che abbiamo sbagliato collegando qualche filo. Preso, gli hanno fatto un rapportino, con questo rapportino si è messo l'avvocato lui e si è fatto pagare tutto quanto. Caramba. Sì, ma poi cosa che ha chiamato i buoni l'avvocato io? Ma... a me tu mi paghi. Tu Enel mi prepara la segno mi paghi, non ho bisogno di pulirmi l'avvocato. Che pure a lui devo pagare. No, ma l'avvocato mica lo paghi, lo pagano loro, lo pagano chi perde la causa. Pure quello è vero, ma dopo di quanto l'hanno pagato? No, non c'è passato molto. L'avvocato ha mandato solo una lettera e quindi hanno mandato la segno subito col valore degli elettrodomestici. Fatto una cosa forfettaria perché molte ricevute di pagamento non se ne ritrovava e non pagato per quello che ha chiesto Bubas. Hanno rovinato tutto, televisore, computer, tutto quanto le macchine. E lo stereo buono. Vedi, ma sai come succede quello? Quello lì succede. Ma che, guarda, se ci avrebbe stato sbatto di corrente per quel fatto là, ci avrebbe bruciato tutto, non lo so. Comunque, quello che è successo, sicuramente hanno sbagliato una fase, gli hanno dato troppa corrente, gli hanno dato, minimo l'hanno dato, se 220 minimo l'hanno dato, ha guardato il vento. Il televisore ha fatto puff. Che idea? Uscito, un casino. No, non da nulla. E tocca a te, ma va anche a te staccare la spina, perché va a provare ad essere nascosto. Quello non te lo fa, ma perché sono isolato. Esce un fumo, esce. E tocca a fatto puff. Proprio una cosa del genere, tipo un zoppo e puff! Vorrebbero arrestarti. Oh, poi ponevo comune alla casa, mi dicevo, se non veni giù. Già, non credo, già. Molte volte anche giudirmi. C'è che a partire dai apparecchi, gli sbalzi termici dal caldo al freddo, poi succede l'estate così perché mi ha scaldato un bel assetto. Ma no, non può succedere, secondo me sono delle cose che anche una cosa moderna, secondo me se dovevi fasciare basta, no, cioè una cosa che è fatta per resistere, cioè non si può rompere, cioè, questo è il mio parere. Ci sono delle cose che magari sono fatte con pezzi difettosi, può succedere che anche una macchina esca difettosa dalla fabbrica, così può succedere che esca un apparato e questo apparato viene usato per lungo tempo e cosa, magari essendo difettoso quel pezzo parte prima, non è questione di non deve succedere, non si può dire non deve succedere, non dovrebbe succedere. Sì. Secondo me la cosa più applausibile è quella che c'è un pezzo difettoso, perché cioè, se il prezzo è buono è deficiente al 100%, no? Dovrebbe succedere tra 2 di 80 anni pure. E avrei visto che lui lo usava parecchio, ma è successo sino a quel momento lì, vuol dire che non va a partire quel momento, tanto non è che casino, non è che uno se lo possa immaginare che parta, se l'apparecchio va bene, va bene. Non lo so, non lo vedevo. Noi ci arrugginiamo, a volte anche bambini piccoli le fa male il ginocchio, le fa male qua, le fa male là, e poi sono piccoli. Dovrebbe succedere quando sono grandi, eppure gli succede anche da piccoli. Senza andare tanto lontano, il figlio di Miracco Male ha problemi al ginocchio, non riesce a piegare, a volte gli si blocca, ed è un bambino piccolino. Yeah. Adesso forse lo devono fare la rotta. Sì, no. È un problema di nascita, però non è questione di... è come il problema di fabbrica, lui da quando è nato probabilmente ce l'aveva, anche se non si lamentava perché era piccolino. Quando ha cominciato a parlare lo diceva, mi fa male il ginocchio, ma mi fa male il ginocchio, ma mi fa male il ginocchio, l'ho volata a controllare e c'è la malformazione, la rotta. Verino. Purtroppo non è così, lo devi fare. Troppo. La natura è strana, è strana. Poi prima non si sentiva, ma adesso ne so sentito troppo, quello che nasce con un difetto al braccio. Quindi la figlia di una mia collega è nata senza le dita nella mano, poverina. Papà. Ma comunque prima ce n'erano di più di questi casi, gente che nascevano che erano proprio brutti di tutti i colori, adesso un pochettino di meno perché anche la gente si sta un pochettino mischiando, quindi le nascite sono migliori, però poi ci sono questi casi che capita. Come sarebbe di mischiando le razze? Come sarebbe a dire? Che molti si vengono da parti diverse. Pronto, ma non è dovuta a queste cose qua, è dovuta all'atmosfera, all'inquinamento, a queste cose qua, le malformazioni sono dovute anche ai fattori genetici. Papa, e già, però adesso, prima venivano un sacco di infetti, venivano finalmente, cioè, negli anni prima, dietro, adesso le ragazze sono sempre più carine. La razza è cambiata quella lì, ma il miscuglio delle razze non è che porta certo al miglioramento, anzi. C'è chi dice che c'è gente che le sta ammassando le razze. Davvero niente, è proprio quello, è proprio quello è che cosa che mischiandoci le razze, cioè porta anche la bellezza forse della persona, perché è così. È un modo di vederla diverso, no? Persone belle ce ne sono anche che non sono mischiate di razza, Diciamo che la nuova generazione ha portato molte persone, molte ragazze belle. Nelle nuove generazioni ci sono belle ragazze. Ah, cioè, dagli anni 80 in poi, prima era lei, mamma mia, cazzo, c'erano certi che non volevano più. Perché mi ha scappato il microfono. Ehi, tanto, diciamo che le belle donne sono sempre state. È vero anche che prima c'erano dei mostri che nascevano, proprio quelli con due teste, con cosa. C'è un istituto a Torino, si chiama Cottolengo, e ci sono queste persone che nascono senza braccia, con due teste, con due gambe. E già lo so, già. Lo so. E così sono casi particolari, insomma. padre e mia madre con la sua figlia di nozze erano andati a trovare questi, che mio padre dava sempre le offerte, questi del Cucurengo, a Sant'Antonio, queste cose qua, e voluto andare a trovarli, però quelli più brutti non li hanno fatti vedere. Ma mamma mi raccontava che c'erano persone senza mani che facevano l'uncinetto, come facevano non lo so, però dice che erano velocissimi. E purtroppo uno si abitua, anche se non c'ha la mano, si abitua a fare le cose col mongolo. Ma allora che sa come te sarà abitua? E poi dice che quando c'erano loro gli è arrivato un autotreno di roba, non sapevano mai da dove fosse arrivato. Non va un autotreno di roba da mangiare. Grazie. Perfetto. Non ho voluto fare un'opera di beneficenza. E va, quelli che gli gettò sicuramente lo guardano, vedranno solo un po' che persone. E quelli che li assistono, non li fanno vedere a nessuno. Non certo deve essere una cosa bella vedere certe cose. Penso proprio di no. Te ne immagini se ti guarda con due teste, mamma mia, mi cosa ronfia. Qui ci sono quelli siamesi, quelli che nascono attaccati, gemelli. Quelli hanno fatto la spazzatura per separarli. La mamma. Cosa? I figli due, tutti e due così in pace. E escono così attaccati. A volte c'hanno solo un organo. Vuol dire un cuore per tutti e due, quindi non li possono staccare, ma ci sono a volte che hanno gli organi separati e allora li separano. Si caga. Ma quando hanno un cuore per dire un fegato e sono due, come fai? Già, vivono così. Vivono insieme. Cioè se uno deve andare a fare la pipì praticamente la trone a pure deve andare a impari a Edru Martese. Ci vivono insieme. Deve essere una cosa tragica. Non ho capito perché questi siamesi. Gemelli siamesi. Così si chiamano. Sono quelli che sono uniti, non che sono attaccati. Papà. Vengono chiamati in un certo. Poveracci, via. È come a volte trovi il pane, non ti è mai capitato di trovare il pane così. E così sono loro, sono attaccati con la carne così. Chiappa. È già mi è capitato già. Vabbè. Il pane è il pane, ma lì ci sono vizi, poveracci. E sono persone. Sono persone, vabbè. Già lo so. Però io. La natura fa molti scherzi, in realtà. Lo so. Come fa cose belle, fa cose anche brutte. Come terremoti che crea allagamenti, ammazza persone, cose di bussi di maremoti, tutte queste cose qua. Secondo me è una ribellione della natura contro l'uomo che sta inquinando. E stanno combinando, inquinamenti e cazzaferrari, oia. Stanno facendo un po' che cosa, oia. Poi così riparabili. Due tizie di nafta nel mare, di tutto, petrolio, gas, macchie enormi, gigantesche. Beh, già non credo io. Lo petrolio, cioè, perché le navi non le guardano neanche bene, sennò queste cose non succederebbero. Sicuramente disattenzione succede quello. Ma anche le navi che affondano, di queste cose qui che succedono, mi si spattolo, magari hanno delle collisioni e perdono petrolio che ci hanno magari in carico. Allora, sono sempre cioè, perché non danno, lavorano così, lavorano, soprattutto in altri paesi, poi che ci rimette, ci rimette. Più che navi sono le petroliere, le gasiere? Le gasiere, siano che trasporta il gas, già, gas in aria, non fa nulla, e il petrolio è maledetto. A proposito di gas, sono andato a Porto Torres alle Fortunine, no? E ho detto, ma come mai questo gas fa fare meno chilometri? Con l'altro faccio 460 chilometri con un piero e con questo ne faccio 410, 420. E ho detto, guardi, questo qui è propano, non è GPL, è un gas migliore, più raffinato. Invece l'altro che vendo è GPL, è propano e buttarlo messo insieme. È possibile? Una miscela l'altro propano. Propano proprio, ho detto che è più raffinato, non sporca i filtri, eccetera, eccetera. Migliore, se è vero che stanno quello. Senti, sì, la sai da come ci senti? Io lo sento malore perché danno un additivo diverso. Ah, vabbè, io non so come fare a odorare, però magari nel tappo ci rimane un po' di odore. E comunque dura di meno, cioè si fa fare meno chilometri. Adesso devo vedere perché da quando mi ha fatto quel lavoro lì, stasera mi stava andando male la macchina, mi si bloccava, quando andava a gas si bloccava la macchina. Lavoro qua. E non lo so, te l'ho detto, ho cambiato cinghia, olio, tutte queste cose qui, l'ho messa a punto. A me non va questa macchina. Non va bene a benzina, però se va a gas si spegne. Toccato, infatti gli ho già telefonato, gli ho detto guarda che non sta, no, dice forse come ho lavato il motore magari è entrata un po' di acqua nel cavetto che fa cosa del polmone. È lui che gli ha detto di lavare il motore, ma scemo. Ha lavato il motore, l'ha messo anche la cera, l'ha fatto lucido, lucido. Ciao. Ma non si può. Non si può. Se la parla il motore. No. No. Ci vorrebbe... Molto fanno, molto lo fanno. E ti ricopre nei fatti casini che non finisce più. No, lui dopo che fa questi lavori qui li lava sempre. E poi rimette la cera sopra. Vabbè, generalmente lui non ne può la fare. Comunque è stato umidità, ha fatto casino. Ma speriamo che sia così come dice lui. Poi infatti, cioè, sono andato a ritirarla, mi ha accompagnato Giuseppe a ritirarla, cazzo. Andiamo a farci un giro, a provarla. Se si sfrulla da vicino ai punti, aspetta vicino ai punti. Moto, ho avuto un po' di difficoltà a rimettere in moto, allora l'ho messa a benzina, andava bene, poi l'ho rimessa a gas e si è sulla da dopo. Ciao, ma tu deve stare attento lavorando. Ma l'ho già detto, la macchina te l'ho portata che andava benissimo, non bene, l'ho fatto solo per scrupolo e infatti l'ha già svenata. Ciao, da chi l'hai portata? Da quello che ti avvicina a casa tua? No, da Costantino, da ricerca della mia collega. Ciao, mamma mia che... No, è bravo, questo qui prepara macchine da cosa, non è macchina. Prepara le macchine che vanno anche con una scala piccata, se quelle macchine lì... C'è anche cosa per lavare i motori, cioè. Non lo so, c'è il pulivapo sicuramente. Nella faggia non si può lavare assolutamente, a meno che non abbi una cosa, non so che cosa devi avere. Allora sì, però se ti ricopri guai, ti fa sempre dei guai. Boh, quella volta la dovevo portare a fare la revisione, la macchina l'ho portata quella di mia moglie a farla lavare, ha detto no, la motore non le facciamo. Ho detto ma sicuro che non le fa? E se lo facciamo sono 60 euro. Ya, non lo fanno perché mi che passano un po' di guai. Non abitano i guai. Io ho trovato 60 euro a fare il motore. 60 euro ti ha preso. E allora? Già che ti ha fatto il legge. Sì, il nero con l'affare. Infatti non resta più lavando nessuno altro. Sì, sì, è così, apri la fai a salvatelo la faccia. Farà cazzata, lui. Ma perché se tu non usi, scusate, non usi nafta o roba inquinante, la maggior del motore lo fanno con l'acqua calda e poi ci mettono questa accetta. No, praticamente viene, prima viene dato il conto, un prodotto per farlo sgrassare, e la cera viene data dopo, viene dato un prodotto per lucidare il coso, le palestrate, il coso, viene dato questo acido qua per sgrassare, è una cosa particolare. Poi viene preso, lo lasciano un po' e lo lavano, però non si può perché devi avere un secondo possetto, non so più di cosa, qua, tutte leggi strane. Lo so perché va a finire la fogna va a finire in mare e quindi inquina se c'è petrolio o roba del genere, ma la mia non c'è bisogno di sgrassare nulla, era solo polvere e basta, perché il resto poi è pulito sotto il motore, non c'è nessuna perdita. No, cosa stai dicendo? Hanno una cosa, hanno una tipo cosa fisica, una cosa del genere, non scarica in fogna. Ho capito, c'è una seconda cosa, un secondo scarico, per non scaricarlo nella fogna, se no se andrà dal tumino dove scende l'acqua del lavaggio scenderebbe anche quello lì. Tanto già ne ha affidato. Comunque, tanto lavare il motore non serve a niente, non si vede né niente, ti fa casino e basta ti fare le cose nel... l'acqua del motore a causa è pericolosissimo, spiega la testata e cosa? Allora lavando ho fatto il moto pericoloso, si può fare danno, la deforma è sempre il coso del calore, dal caldo al freddo fa pericoloso. E poi mi ha detto il meccanico che siccome è anche il carattrice che stava andando ai punti un giorno che si dice che gli ha fatto tro, che si è fermato di colpo, poi gli ha dovuto cambiare anche la testata, puntate il valvole, tutto, che ha spaccato la cinghia di distribuzione. Pericoloso, la cinghia di distribuzione è pericolosa, fatto un bel di danno del valvole. Lo so, ma è per quello che la cambio molto attentamente, ogni anno controllo sempre i chilometri, quanto ci vuole. So già che per una macchina del genere 3 euro. Non si uscì. Vorranno 800 euro già. Che cosa? Cambiamo tutta la selle delle valvole, la guarnizione di testata, ci vuole, tutto ci vuole. 1.200 ne ha pagato un amico mio con la marea. Marea Station Vegas. E era andato anche alla Fiat per chiedere per quando poteva portarla per cambiare. Ha detto, ma ancora ne ha di chilometri, faccia ancora che ne ha. Che se ne faccia da prima di fare i chilometri che dobbiamo fare. Ormai, cazzo ma scemo. No, tu fammi la macchina, girami le palle. Il bello che poi quando li hanno portati col carattere alla Fiat se ne è negato che gli aveva detto. Beh, mica ti dice le cose giuste. Dove si non aveva gara di farlo? Capo. Da 200 euro, 300 euro, a posto, già che sacchette. Certo. No. ha messo 1200 euro, mi chiama a far casa Giacomo, puoi venire in Viale Sicilia. Così, cosa è successo? Mi si è fermata la macchina, non può più camminare. Boh, vabbè, da superendo, sono sceso. Vado a mettere in moto la macchina, sento il rumore di Ferrari, e tu bugia. Io che faccio la cinghia di distribuzione. No, sono andato alla Fiat e guarda, ho detto, qua, questo qui è la cinghia di distribuzione, sono troppo sicuro. Non mi sento di nervare, ma tutti i capi pigiati. Dopo lo sentenne che ha avuto cambio vero motore. Sì, si sente la ferraglia, rumore di ferro. E tra l'altro ho camminato, dice sì, dalla polizia, perché in curva ho fatto un pezzettino. Le strutture hanno fatto un danno più grosso, ma fa un metro e ha fatto un danno di milioni. E infatti ne ha fatto 1200 euro per fare il motore. Un capo l'aveva regato da Ede. Tu c'aveva il carro gratis, capito? Al punto più vicino. Capito. Ma me l'ho fregato, la fine l'ha preso. Guarda, per fare... La guarigione è testata da una Renault Clio, mi ha preso 200 euro, gli ha preso il meccanico, cioè vicino da noi, che ci ha ambato tutto. Ehi, vuole spianata, eccetera, eccetera. A me in lira mi avevano preso 250.000 lire. Perché? Perché costavano cari pezzi. Lo sai che la Renault, la Volkswagen è un'altra marca, non lo sta facendo il meccanico. Quando cambi la cinghia della distribuzione deve cambiare per forza la pompa. Due le sono cazzate. È da libretto così. Sostituzione pompa e cinghia. Chiappa. Quello alcuni non se l'ha messo. Io visto che... la pompa del coso ha fatto danno spesso. La pompa dell'acqua, no? A chi non lo so, c'è gente che cambia per dire la cinghia e non cambia la pompa. Adesso per dire il mio meccanico me l'ha controllato e mi ha detto la pompa non va nuda già, io ce l'ho già, l'ho comprata, adesso gli ho detto non, perché la tua non c'è nulla, inutile che tira già. Certo. È buono. Infatti mi ha detto sarebbe rubarti i soldi, che te lascio così la cosa va bene. Però anche i freni, se domani devo dire una cosa, e volete anche le candele controllarle. O non le ha controllate, oppure le ha controllate e ho visto che erano buone. Oh, guarda che le candele fanno un bel chilometro. 20.000. La cosa, vedi Gagliasso Muto, le candele ne possono fare anche 40.000, 50.000 tranquillamente. Niente, ma me le pulirle se sono sporche. Qui, io sono quelle aziende che durano un bel, mica non sono più i motori di 30 anni fa, sono motori di iniezione. Va. Me l'ha detto pure un meccanico che è così. Fanno almeno 50.000 km sicuri per le fanno. E mai entro, non sai quanti chilometri ci sono, 148.000, però le ho cambiate. Scappa. No, fanno un bel di chilometri fanno. Alcune arrivano anche a fare 60.000 km, ancora le gambe di Giappone. Io la moto per dire, togliamo il pulifo. Fatta con lo spessore, con lo spessimetro. Vabbè, la moto già si sa. Ma è la miscela che la sporca. La moto con le incrostazioni le fa la miscela. Già lo so, non me ne parlare, ne ho visto tre capelli di quello. Perché nel motocarro già lo so quanto fanno. Di meno delle... Vabbè, il motocarro fa un po'. Beh, era a due tempi, vuoi che non lo usava. Appagato. E vabbè, ma sono candele diverse, sono candele che ci sono... La mia macchina sono particolari. Usa le doppia punta, non lo sai. Quattro, mi pare. Quattro punte. pagare. Aspetta, va. Sta abbraiata. Tu, pianto. Ah. Via. Sta bello, va, porta mia sorella. Ma pensavo che era chi si vedeva, di tu, pianto, non si sa mai. Si sente sta abbraiata, che mi sono andato a dare. Perché squillare te l'ha fatta? Va bene la Ianna, e subito mi sento la Ianna, eccole. A Nerone che c'è, a salutare. Vabbè, conosco la gente di casa. Credi, già. Il primo lo so che quando arrivavo con la macchina si arriva sopra, o tema è buono, che si arriva sul coso del filo da stendere, sul ferro. Mi chiamava miau miau da giù da sopra. Come il cane? Io. Niente, arrivi nei correnti, sotto la sera quando rientro io. Tutte e due, a vedere. Però mi appoggia anche le zampe qua e mi annulla. L'idea ha detto che sentiva proprio il motore della macchina, come sentiva il motore subito frum a razzo andava e cominciava miau miau miau dalla finestra. Il cane. Poi mi veniva incontro la porta. Così fa, riconosce, non c'è nulla da fare, anche il gatto riconosce il padrone. Capagallo. Stupido. Quindi stasera raccontami dello VAT. Ho preso. Ma chi lo ha adesso ti vuole di cincure se lo viaga? Pagato. Reguato. E ti dirò, ti dirò. Oh, per quanto mi riguarda può scappare. Gente che si comporta così, prima gira le palle, sta giorni e giorni rompendo il coglione, e poi fa la vittima, mi si può solo fare la faccia in culo. E se si chiede le atti, allora? A perdere, lui ha... Che non aveva niente su che ha detto, ha registrato un buco. Sono curioso. Mi gira le palle, vai. Se non va più un carro, meno di una cicca. Niente che si comporta così. Babasoni, ma ti dici gossip. Io già avevo pesato qualche cosa. Ma non importa nulla, no? Io sto bene, cioè, io sono in pace con me stesso. E non mi importa di loro. E quello è il punto. C'è di chi rompe le palle. A me non mi importa nulla. Vabbè, ma non è meno giusto di fare pubblicità contraria agli altri senza avere ragione tu. E allora con caglia di mutuo, e di tu caglia di mutuo, boh. Siccome se la pubblicità andava da diversi giorni, è quello che l'apoca che ha fatto traboccare il vaso e che ha fatto girare i coccomi. Allora, ho udito la voce. Le voci, cioè una voce andava, le voci siamo già come se lei ci fuora, le voci siamo fuori completamente, quattro voci mi decidono di aver fatto. Vabbè, c'è gente che magari non si accorge nemmeno di quello che dice, può dice le cose per dirle, senza ragionare. La gente dovrebbe, alcuni, dico alcuni, e tanto se mi stanno ascoltando mi fanno anche un grandissimo favore. Alcuni dovrebbero collegare il cervello e pensare un po' di non rompere le palle, no, non di non collegare il cervello, di collegare solo il culo. Non so se rendo l'idea. E come? Il fatto è che stasera ho girato e l'ho sentito parlando di nuovo di questa studio, capito? Stare fino all'indomani. Può stare, lui deve stare solo calmo e basta. Però i no che non pensa più, te lo dico io. Perché le persone stronze devono stare da una parte. Punto. Mi dispiace perché l'aspettavo da lui. Ti dico una cosa, ti dico che l'avevo inquadrato già da parecchio tempo, solo che sai come non dici nulla, però il comportamento, cioè il comportamento di una persona te ne accorgi da quando la guardi in faccia. Da chi mi sta giudito tutto? Le volte non si hanno argomenti, si dicono cose che non si devono dire, mai sbagliate. Ciao. Non volevo manco prenderlo, ma siccome l'ha fatto lui l'argomento, adesso glielo dico io che persona è, e quello è il motivo, ma un fenomeno continuo, sì, a me già, e comunque bisogna collegare la bocca col cervello. Cosa che molta gente non fa. Come te la vedi? Ma no, noi chiaramente Luca, per capire solo due cosette, per mettere il punto di due cosette che abbiamo capito io e Gianni, che molti non collegano la bocca col cervello, soprattutto uno in particolare che era molti giorni rompendo le palle, andando a sparlare su un altro canale, e quello non è giusto. Ma che non me ne fotte nulla, lui deve collegare la bocca col cervello, dire meno bugie. Non ci metto in bocca, ma non mi interessa, io guarda, mi sono schiacciato tante volte, tanta, ma piglia e sanno, non ha fatto venuta. Fumando a fanculo ho fatto bimba. Ho fatto minchia più di te. Facciamo. Rimasto sempre in guerra, lui, quasi mi ha lì. Adesso faccio ogni ordine, poi ne chiudo, abbasso il volume, non so come vado da altre parti, non ha più altri che mi andrà. Già, il discorso non riguarda te, quindi non puoi esserne coinvolto. Il discorso è un discorso che, cioè, tu non c'entri nulla, tu sei una persona che ascolti, sai le cose e basta. Sei fuori, sei da un... Il discorso è, già lo sappiamo io e Gianni, non ti preoccupare. Sì, io ho capito, non sono messo io, ma dico, a me non interessa, non... Non messo per la parte, capito, non... Ho capito, oggi capito. Vabbè, sono cose vostre, io non... Io sono amico di tutti, guarda, non me la futti nulla. Non è che perché adesso tu mi sei chiamato con, ti faccio un esempio, con Ottavio, adesso non devo parlare con te, oppure viceversa, sono affutti, sempre amici, però sono sempre amici. Io vado a parlare con te, mi piace, dove mi trovo bene parlo, mi trovo bene a seconda dove sono. Molte volte un po' l'argomento non mi interessa, non è che c'entro. Dipende dalle serate, sono serate belle e serate non belle. Capo, ma quello è un altro discorso ancora, quello. Noi stiamo parlando di un'altra persona che già ci siamo capiti, che basta una volta, accenni qualche cosa bene, ma non tante volte, e mi giri le palle. Tutto qua è il punto. Quello lì è un altro discorso, poi già lo sappiamo noi. Io ho capito più o meno, dai, ho capito, c'è un'altra persona che va a parlare, quello l'ho capito. E ti ho detto che non c'erano cioè, cose che a me riguardano, tutto qua. Io sto ascoltando e boh. Ora sto facendo chiacchio, più il SAR, ma fatti più nuda. Però è buona via, allora mi ha fatti più nuda. Avanti Gianni, senti si ha bloccato. Vabbè, non ti la fotti nuda, ci raccordi cercando di persona, magari se lo fanno a te entri e glielo dici lo stesso, se quando siamo toccati non ci interessa, però quando uno ti fa l'esempio ti dice in quel canale non ci vado più perché ci sono quei due, quelli alti e grossi che fanno ciaramenti, quindi stavano mettendo in mezzo ai ciaramenti, chi? Non va bene, dai. Stava cercando a me per Paolo perché i grossi di quel canale siamo noi, quindi non ce ne sono altri. Quindi le cose ti danno anche fastidio, ma non... mi dispiace solo che una persona che credeva a vita si è comportata male. Tutto lì. Ciao, poi non è assolutamente vero perché noi quelle cose non le abbiamo mai fatte, mai pensate. È tutta cosa che si fa indietro. Ho capito quello che volete dire, ma io dico, ma non io ignoro queste cose, cioè non sono io a bisticciare e fare, poi ognuno fa quello che vuole, ma non me ne frega niente. Tutto qua. Certo, se mi cerca cerco di difendermi, non è di molto punibile in capo. Solo che ho detto che è un discorso vostro, a me io non neanche mi trometto. Se in caso tipo la tua volta qui è successo un mezzo casino, cosa è successo tra. Vabbè, non faccio nulla, mi chiamo, mi avete capito, questo mi sono messo in mezzo perché non. A me non mi riguarda, tutto qua. Ma fai bene fatto. E io dico, se perché non ti ha toccato di persona? A me mi ha toccato di persona, io gli ho detto nelle maniere dovute, però gliel'ho detto. Mi dispiaceva che aveva fatto quello, lui ha detto io ho parlato in generale, no, non hai parlato in generale, hai cercato due persone alte grosse in un altro canale, e chi c'è? L'altro canale siamo noi, non esatto i canali che io frequento la gente, tra le 40 che ci sono i trattoristi e basta. Ciao, ci hai promesso, mi hai detto, ma finiti di mio, un attimo di briano, cioè, mi sono messo perché non lo faccio più, non... Quando due sono bisticciando non si arrangiano, a me non sono lì a perché un bambino, no, si arrangiano. Mi dispiace perché magari è un amico, però sarebbe su qua. Cioè, vabbè, ma l'amico gli basta più bini pure io. E infatti mi sono neanche intromesso, non ho detto, dai, smettete, non fate il casino, non ho detto niente, nulla. Stavo solo ascoltando e basta. Hai fatto bene. Non ho fatto uscire, non manco. Tanto ogni luce è sempre guerra. Bisogna fare così già, come può succedere a te, capito? Ti fanno un attimo e i polizi si arrangiano, da sobrienti. Il problema è questo, se avrebbe collegato la bocca col cervello, quello non era stato mai successo, mai. Non sai cosa vuol dire mai. Siccome la bocca col cervello non la collegano molti, allora succede quello che succede, punto. Vabbè, se vogliamo. Sai cos'è? C'è che molta gente si crede Volpino, ma non sa che di Volpini ce ne sono più forti di lui. Che la gente ascolta, si registra pure quando sente le cose che deve sentire. Non lo so. Questo là è più grande, ma è assurdo, una cosa non ecco perché la gente poi si ammala. Io sto a piangere che è cotto e morto. C'è la freschetta, ma la seconda dove si metti da solo fa bene. C'è anche il caldo, non solo. Poi io non mi sono accorto che stava più vento. Guarda, ma se si è smesso per chiuso la finestra. Sto per l'una. La chiave sulla coppa se ne esce, e sono tirato con caldo, allora se ne va sopra la coperta in terra, la sua cuccettina, e adesso non si sente, perché devo le fine fare più un vetro, io non sento niente. Un bel po' di gnocchi, la pasta asciutta ce la mangiati, ce la mangiati. Stiamo ingrassando il burro, ma la giusta. Bisogna essere pesantuccia. Si sente il peso. Vabbè, anche noi hanno il diritto, hanno il male. Lui è. Tra molte ragioni non c'è la male. Perché l'ago non connetterò proprio, zero completamente. Cioè, aiutati, non ce ne bisava nulla. Infatti meno male poi domani adesso forse qualcuno la benedetta da lassù non ci sparavo più assolutamente, perché chi diceva una cosa, chi diceva l'altra. E gli atroletti che cos'è? Sono i legumi, non è che le fanno male. Non bisogna mai darle dei legumi, patate, anche roba fritta. Infatti che il cane non deve mangiare né roba salata né roba fritta né legumi. Io al mio li davo solo gattini di pollo, carne macinata col riso, tutte queste cose qua. La moglie aveva la pasta asciutta. La pasta esiste quella per i cani proprio, i carboidrati ai cani non è che fanno bene. Ragazzoni, io vi devo salutare, buonanotte Luca, buonanotte a te Gianni, mi ha fatto piacere questa chiacchierata, a passare queste ore con voi. Buonanotte Gianni, buonanotte Luca, a sotto a chi tocca. Ciao ciao Anto, buonanotte, buon lavoro per domani, avanti. Sì, ciao Anto, buonanotte, a domani. Se Dio vuole. Ciao ciao. Ciao ciao a tutti, purtroppo io devo smettere. Magari sarò in ascolto, io devo smettere di parlare. Adesso fa un po'. Fanno la nanna, dai. Ciao ciao. Comunque sarò volentieri all'ascolto per un pochino, dai. E poi tempo che mi preparo la cosa da. Ciao ciao, buonanotte. Chiuserai per conciliarti il sonno. No, perché adesso qua io faccio cosa e quindi poi dopo guardo il televisore e via. Ok, buonanotte a tutti, perché non posso più parlare perché adesso devo dormire di loro, devo riposare. Ciao ciao, buonanotte. Certo, ciao. Hai capito come? Ci sono delle piccole cose che gli animali fanno male, non bisogna mai dargliene di queste cose qua. La pasta, per dire, la pasta con la nostra allora non va bene, ma c'è gente che gliela dà e io vedo chi tappa. Adesso arrivo le crocchette già, adesso vediamo un po', domani mattina mi avvicino, mi ricompro le crocchette e quella al pesce, mi ha detto Monica, le migliori per loro, quelle piccoline al pesce. Monica non aveva i cani via qua, sicuro. E cos'è il cane? Però lindo. Ah, capito. Non è veterinario lì. Comunque già se ne intende, dai. Cazzo 20 e passanti mezzo ai cani, mezzo agli animali. Ma per Lindo perché 20 anni c'è. No, non so, ma c'è inizia con 20 anni in mezzo agli animali. Comunque ci sono cani in campagna che mangiano di tutto, non ribalti nulla. Però, per dire, Antonio, quest'amico mio in campagna c'aveva il boxer, c'aveva un pastore in Iripro, un pastore tedesco, un pastore belga, quello lì. Di Gogi era un settore irlandese e dava pane duro questo nell'acqua calda, gli faceva una specie di pastone, li metteva le uova delle galline che praticamente le faceva, a volte si filavano, li metteva quelle uova di fresche, però magari filate non le poteva vendere, metteva in mezzo formaggio e tutti gli avanzi della roba che avevano mangiato. Diciamo che è un buon pasto, ecco, bello nutriente. E li metto in mezzo di pasta asciutta, di carne che non avevamo mangiato, tutto in mezzo li mette. Vado a vedere questi cani, erano longilini atletici, che quando li liberava Gigogì, era sul nome strano, erano sette le rande e si riportava sempre i conigli vivi in bocca. Vabbè, comunque c'è niente che dà di tutto, quello che mangiavano loro, tutto. No, allora fritti niente, né banane, né patate, no, se fosse così no. Perché la mamma gli ha detto non ti permettere della roba fritta, né patate, né niente, nulla, mamma mia, zio, t'ammazzo. Poi anche io gli faccio il riso con la carne macinata, una volta di comprarle quella di cavallo, carne macinata con la carne di cavallo. La carne macinata la metti in mezzo al riso e il sale, niente. Qua il sale gliela metto proprio una puntina. Che paga. Ma lui io dai, ti saluto che quella del fronte non viene. Ci sentiamo, buonanotte. Ciao Antonio, se sei all'ascolto. Buonanotte anche a te. Ciao. Buonanotte a tutti. Tutto, ciao.